siamo con Rebecca, voce fenomenale del gruppo La Para, che terzo gruppo a esibirsi a India Bestia in questa domenica 10 aprile. Ciao Rebecca, come stai intanto? Ciao, tutto bene? E un po' di adrenalina in circolo, ma ci voleva, era da un po' che non suonavamo. Allora, tu sei la front woman dei La Para. Come è nato questo gruppo, questo progetto? Allora, questo progetto nasce 3 anni fa, e nel senso che io inizio a scrivere delle canzoni, non conosco gli strumenti, cioè ho bisogno di una band, e quindi iniziamo a suonare insieme, dopodiché diventiamo un vero e proprio gruppo, quindi iniziamo, diciamo, anche nella parte di produzione e registrazione a farla insieme e a confrontarci, cioè non è più una band, cioè non è la mia band, siamo una band. E diventiamo 6 con l'uscita del primo EP, Tutti gli animali del mondo, che è uscito aprile dello scorso anno, e niente, questa siamo noi già. Tutti gli animali del mondo, tra l'altro voi vi presentate sul palco, tranne te, con delle mascherine da animali. Come mai? Cos'è questa idea? Sì, nasce perché tutti gli animali del mondo rappresentano un po' tutte le paure, no? Tutte, appunto, la para, le paranoie, quindi c'è un po' gli irrisolti, ma in veste, diciamo, più divertente, che non fa paura, perché infatti sono maschere cioè proprio da bambino, da compleanno. E è un po', secondo me, anche quello che caratterizza i nostri pezzi, cioè che in realtà non sono canzoni che hanno un contenuto allegro, felice o spensierato, però, diciamo, si amalgano. C'è molto contrasto tra il contenuto del testo e quello che poi esce come suono e come atmosfera live, ma anche registrata. Oltre a il concerto di oggi, avete delle date in programma nel prossimo futuro? Sì, allora, il 24 aprile abbiamo una doppia data. Il pomeriggio, verso mezzogiorno, cioè suoneremo a Montesole, che c'è questo festival di 2 giorni. 24 e 25 aprile, noi siamo il primo giorno e, diciamo, inauguriamo questa serie di concerti che si altereranno a interventi un po' più istituzionali, e la sera suoneremo invece a Renazzo, a un villa che ha un altro evento, non mi ricordo ora il nome. Beh, lo cercheremo guardando sui social. Guarda, per chiudere ti chiedo una canzone delle vostre da far ascoltare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Ah, questa è facile, perché Papavero, che è l'ultima uscita, quindi senza fare preferenze, è l'ultima nata. Perfetto, Papavero dei La Para. Grazie mille. Grazie a te.